Europa 24. Un saluto da Gigi Donelli, benvenuti a questo appuntamento con l'Europa d'estate. Oggi vi parliamo di social housing, cioè del problema sempre più complesso per molte famiglie italiane ed europee di provvedere appunto a un'abitazione degna di questo nome. Se ne occupa per noi Valentina Furlanetto. Cresce in tutta Europa il bisogno di social housing, quelle che in Italia erano le case popolari degli anni 70, diventate sinonimo di cemento, casermoni e degrado, ma stavolta l'edilizia popolare punta anche ad essere esteticamente bella, oltre che efficiente, fatta di risparmio energetico, quindi efficienza, materiali verdi ed ecocompatibili, oltre che a prezzi contenuti. E non è un caso se appena un anno fa il ministro tedesco dell'edilizia e dei trasporti pubblici Peter Ramsauer, divulgando i dati del Pestel Institute di Hannover, ha detto: abbiamo bisogno di più case popolari. Secondo quel report sarebbero servite circa 400.000 nuove abitazioni popolari in Germania dal 2012 al 2017. Ma l'ultima versione di questo rapporto, aggiornato al 2013, è ancora più allarmante. L'istituto di ricerca tedesco dice addirittura che la Germania dovrà costruire o riadattare o ristrutturare a scopo abitativo almeno 2 milioni di appartamenti destinati a una popolazione anziana. Quello della mancanza di abitazioni e degli affitti irraggiungibili rimane quindi il tema di punta e la nota dolente di tutta l'Europa unita, con una bilancia che pende drammaticamente a sfavore dei PIGS, Portogallo, Italia, Irlanda, Grecia e Spagna, e dei paesi dell'allargamento ad est, Croazia compresa. Sollecitudine tedesca a parte, i paesi più colpiti sono quelli dell'Europa orientale, con percentuali che vanno dal 12% dell'Estonia al 28% della Romania, e sul versante opposto quelli del nord, dallo 0,5% dei Paesi Bassi all'1,3% della Danimarca. È interessante che l'Italia, con il suo 7,3%, e la Grecia, 7,6%, siano gli unici paesi dell'Europa dei 15 a superare la soglia media del 6%. Immettere quindi al centro il sociale, quanto chiede anche Andrea Cozzolino della Commissione Occupazione del Parlamento Europeo sul tema dell'edilizia sociale. Abbiamo tanto costruito in questi anni, paradossalmente ora abbiamo tanti vuoti e necessità nuove, dice al microfono di Gigi Donelli. Ma innanzitutto è rimettere al centro dell'attenzione delle politiche europee e dei singoli stati membri le questioni che attengono appunto alla condizione sociale, soprattutto nelle grandi realtà urbane, dove c'è un diffuso malessere, un diffuso disagio legato al fatto che ci sono sempre meno abitazioni che abbiano qualità, sicurezza e soprattutto sostenibilità dal punto di vista economico e sociale. Dunque il paradosso è che abbiamo tanto costruito in questi anni e paradossalmente adesso abbiamo tanti vuoti e tanta necessità invece di rispondere a esigenze nuove di fabbisogno di case, di appartamenti, soprattutto per giovani coppie e per famiglie che vivono in una condizione di precaria condizione sociale. E dall'Europa può arrivare un segnale, ma voglio dire un cambiamento oppure un'illusione? Cioè gli strumenti che voi avete come parlamentari e poi l'Europa possono davvero smuovere quello che a quanto pare l'Italia non è stata in grado di fare? È noto che il trattato ci impedisce di avere una politica con una forte base legislativa sulla casa e sui temi relativi alla questione urbana. Tuttavia, nella riprogrammazione delle risorse comunitarie 2014-2020, sono risorse ingenti, più di 32 miliardi che dovrebbero affluire verso l'Italia, sia del nord, sia del centro che soprattutto del sud, noi abbiamo posto una condizione e abbiamo ottenuto un risultato. La condizione è che almeno il 5% di queste risorse siano destinati direttamente ai comuni per mettere mano a programmi di rigenerazione urbana senza consumare più suolo, ma abbattendo e ricostruendo e quindi dando un nuovo valore anche alla casa. E proprio al social housing è dedicato il prestigioso premio europeo di architettura Ugo Rivolta. Quest'anno la presentazione dei progetti c'è stata a fine giugno. Sono pervenuti 44 progetti da 8 paesi in Europa. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Bene, con questo è tutto. Grazie a Valentina Furlanetto. L'appuntamento con Europa 24 è per domani, sempre intorno alle 13.10. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.